Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Violinista dal look rock, ha collaborato con i più grandi. Durante la quarantena ha scritto Andrà tutto bene, ma poi ha mobilitato i colleghi artisti. Alessandro Quarta. Si ricomincia dopo una grande battaglia che ho preso di petto. Alla fine ce l'abbiamo fatta con questa anche petizione, L'arte e vita, insieme a Danilo Rossi, insieme a Alessio Boni, insieme a Mario Brunello. Invece di aprire il 1° gennaio 2021, abbiamo aperto il 15 giugno. Per te questo periodo di lockdown, confinamento, chiamiamolo insomma in tutti i modi in cui si può chiamare, è stato un periodo appunto che hai messo a frutto in tanti modi, scrivendo, levando l'archetto per mostrare la categoria. Mi racconti un po' di tutte queste cose che sono successe? Assolutamente, certo Marta. Il primo periodo, i primi 15 giorni, sono sincero, l'ho presa malissimo. Avevo paura che mi arrivasse addosso una di quelle malinconie incredibili, tant'è vero che non ho toccato né violino, né pianoforte, né composizione, niente. L'ho presa veramente male. Poi alle 2:30 di notte mi sento col mio amico Fabio Ingrassia, un pittore bravissimo, un genio. Ho detto: senti, ma perché non facciamo qualcosa? E lui mi ha detto: cosa? Mi ha fatto vedere un disegno che stava facendo. Io ho detto: Madonna, ma è bellissimo, aspetta che ti scrivo il brano. E quindi tra la notte e un po' la mattina del giorno dopo ho scritto Andrà tutto bene, che è stato un successo incredibile. Quel brano mi ha dato la forza di andare avanti, stiamo parlando dei primi di marzo, anche se ero molto abbattuto, perché puoi immaginare, scrivi ma non sei sul palco. Per me il palco è la mia vita, il pubblico, il teatro che respira, è tutto, non riesco a stare a casa io, ma neanche a suonare, perché a casa si studia, no? Però poi sul palco devi entrare in armonia col teatro, con la gente che ti ascolta, che ama, occhi chiusi, che ti guarda, e che li stai conducendo nel tuo mondo, perché poi io alla fine finisco di suonare e non mi ricordo niente di quello che ho fatto, me lo devono dire gli altri cosa ho fatto, perché vado in un'altra dimensione. Beh, tutto questo mi è mancato terribilmente, però questo brano mi ha dato poi la forza di riprendere, di riaprire le chiavi dello studio, di accendere tutti i miei strumenti, di aprire poi di nuovo il mio bimbo, che è l'Alessandro Gagliano del 1723, e ho detto: adesso riprendiamo a fare quello che sappiamo fare, insomma, dai. Io non sono stato mai un amante dei social, lo sai. O lo fai bene, dedichi del tempo. Io il tempo per me 24 ore al giorno non mi bastano. In quel momento l'unica compagnia è stata proprio, guarda caso, il social. Mi hanno aiutato tantissimo i miei fan, gli artisti con cui facevamo queste chiacchierate delle 21 della sera, con Tocchino, con Giappone, insomma con tanta gente. E però poi in quel momento vedevo anche che c'era una mossa sbagliata che stavamo facendo noi artisti, perché stavamo facendo capire che noi stavamo bene così. E a un certo punto ho detto: no, lo streaming non è la soluzione, è un palliativo, è come per dire: prendiamoci la tachipirina perché ci abbiamo un po' di febbre, ma non te la prendi per tutta la vita, no? Ecco lì poi ho detto: ok, basta dirette, perché dobbiamo far capire che l'arte è un lavoro, non è un gioco, e come tutti i lavori va remunerato, deve essere vissuto sul palco. E da lì ho detto ok, basta chiacchierate, basta social, e programmiamo i concerti. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alessandro Quarta. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.